Con Matteo Tarasco, regista dello spettacolo I fratelli Karamazov di Fyodor Dostoevskij, che sarà a Roma al Teatro Eliseo dal 5 al 17 febbraio 2019. Matteo, ben trovato. Buongiorno, buonasera a voi. Ci parli un po' di questo progetto, di questo lavoro? Sì, è un progetto molto importante, nel senso che mi ha impiegato molto tempo con l'Almonaldi trovare la quadratura soprattutto dell'adattamento, perché come puoi ben immaginare, come i telespettatori e gli ascoltatori possono ben immaginare, trasportare un romanzo straordinario come I fratelli Karamazov, quella grande vastità, Le tavole del palcoscenico, implicava un lavoro di riduzione e adattamento molto complesso. E ci siamo incontrati per lunghi mesi con Lauco Mauri, tutti i pomeriggi abbiamo letto e scritto poi di conseguenza questo copione che nell'arco di 2 ore e mezza poi nella messa in scena, diciamo, racconta tutta la storia dei fratelli Karamazov, delle vicende tristi della famiglia Karamazov, e anche quegli aspetti più alti, metafisici, profondi che Dostoevskij propone, ma ovviamente chiaro che abbiamo dovuto fare una serie di scelte, quando si dico scelte vanno sia di rinunce, sia di elezione di alcuni capitoli piuttosto che alcuni aspetti della storia. Per chi ci ascolta, riassumiamo brevemente la storia. È la storia di una famiglia, la famiglia Karamazov, no? È una famiglia derelitta, di quelle che potremmo incontrare molto spesso nelle cronache anche a Vienna, adesso non voglio che la storia della famiglia straordinaria, la storia di un conflitto familiare tra il padre e i figli che porterà un delitto, questo delitto è un conflitto che nasce da economica e anche amorosa, erotica e sessuale. Ci sarà un delitto e ci sarà un processo, ci sarà un colpevole, ma non è colpevole, commette materialmente un atto, ma anche chi lo desidera chi lo pensa, qui ci sono dei grandi interrogativi. Non riesco a capire che cosa significa coscienza, che cosa significa azione. Ora non svelo di più, perché con Lauco Mauri nella scrittura di questo testo e poi nella messa in scena con mia regia c'è il tentativo di raccontare anche aspetti più thriller, più giallo, più suspense di questa storia. E quindi ci verrà anche al museo, verrà invitato anche a seguire questa storia come si segue un rapporto giallo in realtà è anche. Cosa hai apprezzato maggiormente della scrittura di Dostoevskij di questo testo? Dostoevskij ci pone uno specchio innanzi e ci chiede di essere umani sino alla punta delle unghie, e non ci giudica così. E quindi quando ci pone di fronte delle storie, dei personaggi, ci invita a riconoscerci dentro e anche a cercare di essere in qualche modo sopra il giudizio. Ora viviamo in una società del like e dislike. Dostoevskij non si schiera mai, e questo è un grande insegnamento, io credo, che lui ci dà. Riesce con un abbraccio ad accogliere le istanze di tutti, anche le più drammatiche, le più tremende, le più difficili, le più oscure, e questo credo sia uno degli aspetti più importanti di Dostoevskij, forse uno degli aspetti più importanti per gli uomini di oggi. Quindi noi abbiamo cercato di raccontare una storia che non è una storia antica, ma una storia assoluta, essere riconoscibile anche ai cuori dei spettatori del XXI secolo. Ecco, rispetto all'adattamento, su quali elementi avete centrato l'attenzione? Abbiamo scelto innanzitutto, come dicevo, di raccontare la storia di una famiglia e poi abbiamo scelto quelle parti più mistiche, anche più elevate, che sono tra i più famosi, pensiamo al racconto del grande inquisitore che fa Ivan, e a tutti quegli aspetti che ci fanno immaginare che il senso è altrove, ovvero Dostoevsky aveva una visione cristologica della vita, immaginava nella figura del Cristo, non cristianissimo, ma nella figura del Cristo un'ancora di salvezza, e quindi nei Karamazov vi è una visione che ci pone ad alzare lo sguardo in qualche modo, sia che non siamo credenti o no, non possiamo escludere il fatto che vi sia una forza immanente, un qualcosa di più grande di noi che ci possa aiutare a vivere meglio, e questo è uno degli aspetti che Dostoevsky sempre, tutti i romanzi, cerca di evidenziare e noi abbiamo tenuto presente. Lo spettacolo che percorso sta facendo? Ma guarda, lo spettacolo abbiamo fatto lunghi mesi di prove, dopo i lunghi mesi di adattamento, abbiamo fatto alcune date in giro per l'Italia di rodaggio e poi la settimana scorsa ha debuttato al Teatro della Pergola di Firenze, arriverà a Roma e poi farà una tournée in Italia fino ad aprile per poi proseguire il prossimo anno con una seconda stagione. È uno spettacolo, mi piace definirlo classico nel senso più nobile di questa parola, ovvero ci sono gli attori che recitano i personaggi, sembra una banalità detta così, ma è sempre più raro vedere sul palcoscenico attori che sappiano trasferire nei cuori degli spettatori delle emozioni, che credo sia l'istanza primaria del teatro, quando tutti noi ci sediamo in platea, vogliamo avere il cuore in subbuglio, lo stomaco in subbuglio, non vogliamo pensare ma vogliamo sentire, che è un assoluto maestro e decano della scena italiana, con Roberto Sturm, con un gruppo di attori giovani veramente straordinari, lo dico non per evidenziare le loro qualità, ma straordinari come essere umani, hanno soprattutto veramente immersi in questa avventura complessa e affascinante, con tutta la loro umanità, che credo sia il punto di partenza per poi creare in qualche modo un legame con gli spettatori e quindi fare un qualcosa che abbia un senso non solo per chi lo fa ma anche per chi lo riceve. Se gli spettatori torneranno a casa e quando si laveranno i denti dopo aver visto il nostro spettacolo, prima di coricarsi, penseranno ad alcune parole intorno, magari per loro la voglia di tornare a leggere una di Karamazov, allora il nostro lavoro avrà avuto un senso. Ci sono dei riferimenti internet per avere maggiori informazioni? Beh, io so che le migliori informazioni gli ascoltatori si possano cogliere dal vivo al Teatro Eliseo dal 5 al 17 febbraio, come hai detto tu all'inizio. Certo. Sicuramente trovate informazioni sul sito della compagnia Mauri Sturno e sicuramente troverete ulteriori informazioni sul sito del Teatro Eliseo o sul sito della Pergola anche, che è coproduttrice dello spettacolo La Pergola di Firenze. E allora ricordiamo lo spettacolo I Fratelli Karamazov a Roma al Teatro Eliseo dal 5 al 17 febbraio 2019. Un saluto e un ringraziamento al regista Matteo Tarasco. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie, crepi il lupo e a prestissimo, vi aspettiamo a teatro.